Buon pomeriggio a tutte e a tutti, siete sempre sintonizzati sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. E come ogni giovedì pomeriggio alle 16 puntuale inizia un nuovo viaggio musicale di Attica Blues. Tra di oggi proseguiamo la nostra rubrica dedicata agli album di debutto, spostandoci in Giamaica e partendo più che da una band, da una vera e propria istituzione. Un'aggregazione di musicisti di primo ordine che non si limitavano a definire il suono della Giamaica, ma erano il suono della Giamaica negli anni 50 e 60. Parliamo degli Scatolites, spesso accreditati come i creatori dello ska, il mashup musicale di calypso, mento caraibico, R&B, jazz e rock and roll che precedette sia il reggae che il rocksteady. I vari membri di questa formazione sono emersi attraverso la scena dei bar degli hotel della nazione alla fine degli anni 50, formando sia un gruppo originale che la band di supporto, spesso non accreditata, per artisti e produttori come Prince Buster e Duke Reed. Ma è soprattutto con il produttore Coxon Dodd che gli Scatolites hanno tagliato i loro primi successi, diventando anche la resident band alla metà degli anni 60 della sua Studio One. Ed è proprio per questa etichetta che avverrà il loro debutto discografico, che raccoglieva ben 16 successi usciti come singoli negli anni precedenti. Ska Authentic Volume 1 è il titolo di quest'album, uscito nel 1967. E noi partiamo con Ball of Fire. Loro sono The Original Scatolites. Formatosi nel 1963 a Kingston, è rimasto nella sua formazione originale soltanto per 18 mesi, in una formazione che vedeva Jerome Jerry Hines alla chitarra, al contrabbasso Lloyd Bravett, al piano Jackie Mitu, alla batteria Lloyd Cripps, alla tromba Johnny Dizzy Moore, il sassofono tenore era quello cubano di Tommy McCook e poi i sassofonisti contralti Lester Sterling e Ronald Alfonso e ancora il trombonista Don Drummond. Noi andiamo avanti ancora dall'ascolto di questo disco, questa è Exodus. We'll be right back. probabilmente nessun altro artista giamaicano in questi anni ha portato più consensi internazionali alla sua isola natale di Desmond Dekker. Infatti l'introduzione della maggior parte delle persone al suono musicale unico dell'isola è avvenuta attraverso i suoi numerosi successi, in particolare Israelites e 007 Shantytown. Debutto discografico che avvenne nel 1967 e noi iniziamo proprio da questo grandissimo successo. 007 Shantytown, lui è Desmond Dekker. Impostato su un robusto ritmo rocksteady, la canzone è diventata un inno Rude Boy, facendosi rapidamente strada anche nella top 15 del Regno Unito e diventando anche la title track del suo album d'esordio. Due brani per ogni disco all'interno di questo debutto, era presente anche questa splendida Rude Boy Train. Now the rude boy plane is coming. nel 1962 in Giamaica si formò un trio vocale che farà davvero la storia, in una formazione che riuniva i talenti di Frederick Toots Hilbert, di Jerry Mathias e di Harry Gordon. Alla fine del 1963 il trio aveva già registrato una serie di classici per Coxon Dodd, molti dei quali avevano come tema quello religioso. E nello stesso anno anche il debutto discografico con il loro primo album in studio. Il titolo era Never Grow Old e questa è proprio la traccia di apertura a Il Never Grow Old dei Maytals. Che sono stati anche all'inizio il gruppo di supporto proprio di Desmond Dekker e che poi cambieranno il loro nome in Toots and the Maytals, registrando una quantità incredibile di successi discografici. Noi andiamo avanti ancora con l'ascolto di questo album di debutto. Questa è Hallelujah, che lasciava ben intendere anche le loro influenze gospel. I got up on you. He bought the look so very strong. stessi anni a Kingston si formò un altro gruppo storico in una formazione che vedeva Garth Tyrone Evans, Bob Handy, Junior Mans e Leroy Stamp. Loro erano i Paragons che nel 1964, poco prima che diventassero famosi in Giamaica, sostituirono Stamp con John Holt e Mans con Howard Barrett. Il suono dei primi Paragons è fortemente influenzato dalla musica soul e il canto e nello stile dei tri vocali e dei quartetti giamaicani dei primi anni 60. Nel 64 il gruppo attirò l'attenzione del leggendario produttore Clement Coxon Dodd, che portò immediatamente il gruppo al famoso Studio One e sotto gli occhi e le orecchie attenti di Duke Reed incise una serie di popolari singoli per l'etichetta di Reed Treasure Isle. L'esordio discografico avvenne nel 1967 con l'album On the Beach. Questa è la title track, loro sono i Paragons. Let's go and have some fun. All'interno di questo bel album d'esordio anche questa famosissima The Tide Is High, che poi verrà ripresa anche come cover da alcuni gruppi americani negli anni 80. Questa invece è la versione originale dei Paragons. Just like that. No, it's not the things you do that really hurts me bad, but it's the way you do the things you do to me. I'm not the kind of man who gives up just like that. No, the tide is high, but I'm holding on. turn. I'm not the kind of man who gives up just like that. No. Dei Paragons, che farà anche da base per il toasting del DJ giamaicano Uroy, che darà poi vita ad un nuovo genere musicale chiamato DJ Style. L'album d'esordio uscirà nel 1973 in un album che raccoglie una dozzina dei suoi primi brani, tutti tagliati per Duke Reed alla Treasure Isle tra il 1969 e il 1970. Ed è proprio John Holt che porterà il DJ alla Treasure Isle, e Uroy ha ripagato il cantante interpretando una manciata di canzoni classiche dei Paragons, 5 delle quali appaiono proprio in questo album. Noi iniziamo dall'ascolto di Version Galore, la title track. Andiamo avanti ancora all'ascolto di questo bellissimo album con un altro brano a firma di John Holt. Questa è We Are You to the Ball, reinterpretata ancora da questo splendido precursore scomparso lo scorso marzo. Ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Attica Blues con una puntata dedicata agli album di debutto in Giamaica. Noi andiamo avanti con Bob Andy, che aveva inizialmente trovato la fama proprio come cantante principale dei Paragons, ma che lasciò proprio quando arrivò la prima ondata di successi per intraprendere una carriera solista. Il suo picco arrivò come leader alla fine degli anni 60, quando ha registrato una serie di singoli per Clement Coxon Dodd e la sua Studio One. Nel 1970 questi singoli poi furono inseriti nell'album di debutto Songbook, in cui le armonie vocali su tre tracce dell'album sono eseguite da Bunny Wailer e Peter Tosh, e il supporto viene dalla resident band della Studio One, quei Soul Vendors, i cui membri includevano Jackie Me Too e Ronald Alfonso, e si poteva considerare una costola degli Scatolites. Questa è Let Them Say, Bob Andy. I don't know who could be all'interno di questo disco è anche presente questa Two Experience, ripresa poi negli anni 90 da Barrington Levy in una splendida versione dancehall. Arriviamo anche all'album d'esordio di Godfather of Rocksteady, Alton Ellis, che ha attraversato le ere ska, rocksteady e roots. Ha iniziato incidendo una serie di singoli ska per l'etichetta di Coxon Dodd Studio One, ma ha poi raggiunto l'apice del suo successo tra la metà e la fine degli anni 60, quando ha registrato alcuni brani rocksteady con la Treasure Isle di Duke Reid. L'album d'esordio Mr. Soul of Jamaica, stampato nel 1967, raccoglieva proprio le migliori tracce di questo periodo. Noi iniziamo ascoltandoci Breaking Up, Alton Ellis. Mm-hmm. then you'll know just what I'm talking about. You wake up and find your love is gone, and you realize breaking up is so hard to do. And you look up to me and you say goodbye. You made me cry. Not let you go, for my love is so strong. My love is so strong. And if you leave, I will surely die. So listen to me while I say to you, break it up, it's hard to do. Cora Antonellis, questa è la sua Ain't That Loving You. You think I love you for just one day. To you my love it may be the way it seems. Concludiamo questa puntata di Attica Blues con Justin Hines and the Dominus, uno dei gruppi vocali più popolari durante l'era ska e rocksteady in Giamaica. Gruppo che poi scomparse per la maggior parte della prima metà degli anni 70 con il produttore L. Jackie Ruby Lindon, che nel 1975 convinse Justin Hines e il suo trio a tornare a Kingston in studio. Un periodo in cui la scena musicale era drasticamente cambiata, con il suono del primo reggae che rallentava facendosi più denso e prendendo le influenze del roots reggae. E così nel 1976 anche l'esordio discografico in un album per Justin Hines dal titolo Jezebel. Noi partiamo con l'ascolto di Natty Takeover. Nothing to take over. birth the tree, singing this song to me, telling me that everyone should be free. Nothing, not to take over. Dreadlocks be your savior. Nothing, not to take over. Dreadlocks be your savior. Secondo brano anche per Jezebel, l'album d'esordio di Justin Hines, questa è Carry Go Bring Come. This girl go bring come, my dear. Noi vi ricordiamo sempre che ha aperto il radio abbonamento per sostenere questa piccola grande radio che vi tiene compagnia dal 1977, senza padroni e senza pubblicità. Per tutte le informazioni basta andare sul sito www.ondarossa.info, dove troverete anche tutti i podcast e le scalette di questa, ma anche di tutte le altre trasmissioni di una radio davvero speciale. Over the innocent one.